Kobe's gonna play well and I think Paul. Sono sicuro che Kobe Bryant e Paul Pierce giocheranno bene, ma dobbiamo tener d'occhio gli altri possibili protagonisti. Garnett, Ray Allen, Cassell, Gasol, Lamar Odom e soprattutto il contributo che potrebbe arrivare dai panchinari. Ci sarà il duello tra Bryant e Pierce, ma a decidere probabilmente saranno gli altri. È quello che accadeva anche ai nostri tempi. Tutti concentrati su me e Larry, poi spesso le partite le decideva chi si alzava dalla panchina. La stessa cosa capiterà questa volta.